to the Lord a new song. Sing, sing, sing. Canta Iaunari, Cantuveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lui Gustia, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Iaunari, Iaunari, Canta Iaunari, Cantuveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lui Gustia, Canta, canta, Iaunari, canta, Iaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, ansiade diem de die, salutare, salutare. Canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari. Salite, exultate, exultate, salite, incitare, salite, voce sale, salite, incitare, salite, voce sale, cantate, cantate, domino, cantate, cantate, domino, qui. Canta Iaunari, Lui Gustia, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Cantuveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lui Gustia.